siamo solo, ma sempre più giù. Benvenuti a Dedicato, eccoci alla seconda puntata con le quinte di Croce Coperta dell'Istituto Comprensivo 15 di Bologna. Come abbiamo ascoltato la settimana scorsa, anche questa settimana siamo con loro. Sono le quinte elementari, quindi bambini di 10-11 anni pronti al grande cambiamento, al grande salto alle scuole medie. E oggi è la puntata un po' più buffa, mentre la settimana scorsa abbiamo parlato di paure, di cambiamenti, abbiamo affrontato la giornata della memoria insieme, dove i bambini ci hanno raccontato i loro pensieri e poi insomma alla fine abbiamo iniziato anche ad ascoltare le loro prove musicali, perché effettivamente stiamo anche studiando delle canzoni e un sacco di cose insieme in questo laboratorio di Dedicato, che è un laboratorio misto tra musica, teatro, radio. Quindi i bambini stanno affrontando a 360 gradi il palcoscenico ed è una cosa meravigliosa, perché stiamo facendo dei percorsi veramente molto belli e divertenti. Oggi cominciamo ascoltando il risultato di un gioco che abbiamo fatto assieme, che è il gioco del medley, cioè i bambini dovevano scegliere a piccoli gruppi o singolarmente una canzone e cantarne un pezzettino, che sarebbe stato poi successivamente montato da noi dello staff di Dedicato. E andiamo ad ascoltare che cosa è successo nella creazione del loro medley. Oh, ragazzi, sta registrando qui, eh? Cioè... Stoppa. No. Possiamo stoppare? Dovete cantare? No. Ma te, gli altri che ti guardano non ti guardano come ti guardo io. Anche se ti mancano non ti mancano come ti manco io. Che non sono gli altri, sappiamo entrambi che c'è un filo rosso che ci unisce, che non si vede si capisce. Quest'amore ci fa dormire male 5 ore. Pensarci tutte le altre 19. E giuro non ne posso più di fare a meno di te. Ma guardaci adesso che cosa siamo diventati, da sconosciuti a innamorati, poi da innamorati a sconosciuti. Tipo passi e manco mi saluti, ma dai. If the world was ending, I wanna be next to you. If the party was over and I tell a part was true, I wanna hold you just for a while and die with the... Forse oltrepassato il limite di ore senza te. Sento il tuo nome, inizia a piovere fuori e dentro me. Mi rigiro nel letto, non dormo più, vorrei saperti dire di no. Cioè, quel film ti piace alla TV, sembra che stia parlando di noi. Cuoricini, cuoricini, pensavi solo ai cuoricini. Cuoricini, stramaledetti cuoricini. Cuoricini che mi tolgono il gusto di sbagliare tutto. Parlano di lui, un uomo che si perde, ma dà un abbraccio alla vita che poi lui protegge. Parlano di lei, una donna senza cuore, chiede solamente un po' d'amore. Dicono di me che non so consolare, ma sono qui davanti a te, mi prendo il tuo dolore. Parla un po' con me, che sono come te, e le parole sono armi e sanno fare male. Devi saperle usare. Parlano di te, che non hai regole. La gente giudica, ma non sa neanche lei il perché. Parlano di me, che non mi amo davvero, ma una carezza sul mio viso la vorrei sul serio. Parlano di noi. No, dicono di me, non sono più com'ero. E questa sono io, non lo voglio l'oro nero. Zamana mana waka waka zamana mana zaka waka Africa zamana mana waka waka zamana mana zaka waka Africa. Dona kebab nacho Alejandro Garnacho. Dona kebab nacho Alejandro Garnacho. Megafon, telefon, Gia Luigi le fon. Megafon, telefon, Gia Luigi le fon. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell ya. Should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor my will we be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give. And everything's changing for the worse. See, war, it's a crazy world. Virtual Insanity, Jamiroquai. Abbiamo ascoltato il medley della quinta A e adesso andiamo a ascoltare quello della quinta B. Vorrei guarire ma non credo, vedo nero pure cielo, vedi rotti, schegge negli occhi. Prenditi i sogni pure i miei soldi, basta che resti lontana da me. Con due gocce di veleno, vetri rotti, schegge negli occhi, metto pure il battito, battito, sembra di galleggiare. Quest'amore ci fa dormire male 5 ore, pensarci tutte le altre 19, e giuro non ne posso più di fare a meno di te. E basta. Più ti avvicini, più io mi allontano. Eri ricordi se ne vanno piano, su e giù come un ascensore, ogni mia stupida emozione. E no, non cambierà dirti una bugia o la verità, per me fare una follia è come la normalità. Non so più quante notte ti ho cercato, per quegli occhi che fanno da luna. Oh, oh, oh. Non so più quante notti ti ho aspettato, per finir di ingoiare tutta la paura di rimanere sola in questa stanza buia. Non sarò mai più sola per me. Grazie. Cuoricini, cuoricini, stramaledetti cuoricini, cuoricini, cuoricini, cuoricini, che mi tolgono il gusto di sbagliare tutto. Praticamente meglio di Santa Fe. Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, pe, fidati di me. Viva la vita così com'è. Viva la vita, questa vita che è solo un attimo, un lungo attimo. Viva la vita finché ce n'è. Viva la vita, questa vita che... Vivere la vita è un gioco da ragazzi, me lo diceva mamma, io cadevo giù dagli alberi. Quanto è duro il mondo per quelli normali che hanno poco amore, poco amore, sono ho troppo sole negli occhiali. Volevo essere un duro che non importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo. Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato chissà mai perché, ai dimenticati, ai playboy finiti e anche per me, a chi si guarda nello specchio da tempo e non si vede più, a chi non ha uno specchio e comunque non per questo non ce la fa più, a chi ha lavorato, a chi è stato troppo solo e va sempre più giù. Pa-na-na-na. Paranana, na na na na na, paranana. Tornare a quando ci bastava ridere, piangere, fare l'amore, poi stare in silenzio per ore, fino ad addormentarci sul divano, con il telefono in mano, non so più come fare senza te. Te che mi fai ridere, dimenticare, tu che mentre cucini ti metti a cantare. E tu... Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Una mattina portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Un amiciano portami via e mi sento di Grazie per i medley alla quinta A e alla quinta B, che devo dire si sono concentrati molto su Sanremo di quest'anno, ma ci sta, ci sta, a parte alcune incursioni di Raffaella Carrà e il finale con Bella Ciao che ci ha commosso molto, molto. Grazie bimbi, veramente fantastici. Adesso andiamo ad ascoltarvi invece, e già sto ridendo, i momenti liberi, cioè abbiamo lasciato i bambini con il microfono liberi di parlare e dire la loro, quindi è una sorta di ricreazione durante la nostra trasmissione, diciamo, ecco, non avevano assolutamente nessuna indicazione, potevano dire ciò che volevano. Andiamo ad ascoltare la quinta A. Cosa vuol dire? Cos'è? Cosa vuol dire scandire? Niente, l'hai appena detto. Dai che lo sai. Dai Lesgoschi. Con sto Lesgoschi, guarda te. Comunque scandire vuol dire dire le parole piano, facendo capire il significato, cioè... Esatto. Oh, grazie. In radio bisogna scandire le parole. Tu hai qualcosa da dire? No. Oh, però è stato un no deciso, va bene. Allora la quinta A non ha niente da dire. Come scusa? Sigma voi. Questo chiasso che fa la quinta A mi fa pensare che qualcosa da dire ce l'abbiano. Visto che qualcosa da dire ce l'avevano. Forse abbiamo un intervento serio. Aspetta, c'è qualcuno che deve parlare. Lo sapevo che finiva così. I love Trafalgar di Waterloo. Adesso traduci questa frase per un ascoltatore che non ha capito assolutamente niente di quello che hai detto. Mi piace Law di One Piece, che è un personaggio di One Piece. Ok. Adada. Abbiamo un altro intervento. Abdul consegna pizza in azione. Ma scusate, adesso, no, scusate un attimo. Voi state dicendo cose a caso o quello che dite significa? Ok, ce lo spiegate questo. Ridite un attimo la frase. Abdul consegna pizza in azione. Ok. E abbiamo una spiegazione per questa frase? C'è tipo questo youtuber che si chiama Abdul e deve consegnare le pizze e il suo capo gli manda in posti diversi che non si possa, tipo la luna, però lui ci riesce perché è costruito diverso e poi se lo fa bene gli dà mancia. Ok, va bene, ok, tutto chiaro? Mamma, ho fatto un brutto sogno, ho sognato che la scuola andava in fiamme. Tranquillo, non piangere, era solamente un sogno. Infatti. Ok. Ma io non l'ho capita. Va bene. Come non l'hai capita? Allora, qual è la tua materia preferita? Ricreazione. Ok. Perché non si studia? Italiano. Perché? Sono già italiano. Allora, quindi lo sai già, ok. Io calcio. Ma non è una materia. Bro, cioè bro non è una materia. Lascio stare, forse è meglio. Motoria, no. Va bene. Perché? Si può correre invece di stare in classe. Inglese, ma non ho una ragione. Inglese senza ragione. Matematica, arte, storia, italiano. Oh, finalmente qualcuno a cui piacciono le materie di scuola. Sì, tutte. Perché non ho una ragione. Matematica. Non hai una ragione del perché ti piacciono tutte? Perché mi piacciono. Perché ti piace studiare? Sì. E imparare cose nuove? Sì. Grazie. Forse italiano. Ok. Io matematica, storia, arte e musica. A me è arte. La mia materia preferita è... geometria. Arte e scienze. La mia musica, arte, motoria, storia e scienze. Ti diverti a scuola? Ti piace? Sì. Scienze, perché mi piace scoprire il mio corpo. Inglese, perché mi piace come lingua. E storia. E arte. Ok, quindi anche a te piace la scuola, ti diverti a studiare? Sì. Io mi piace motoria. Tutte, praticamente. Oh, ti diverti a scuola? Sì. Mi piace geografia perché da grande viaggerò tutto il mondo. Girerai tutto il mondo? È bellissima questa cosa. Posso venire con te? È bellissima. Cosa vuoi fare tu? Anch'io lo voglio fare, anch'io, viaggiare in tutto il mondo. Volete viaggiare il mondo? Appena finite la scuola partiamo? Sì. Quale scuola? In giro per il mondo. Avrei bisogno di sapere dalla quinta A cosa vuol dire Lesgoschi. Ciao, io abbiamo il capitano del Lesgoschi che ce lo spiega. È tipo un saluto. È tipo un saluto. ciao, ni hao e quindi les goschi. Les goschi a voi. Andiamo ad ascoltare adesso la quinta B con il loro momento libero, quindi scherzi, risate, battute, saluti e c'è anche un momento di dissenso, parliamo di mensa scolastica. Allora, qualche mese fa noi avevamo già affrontato con lo staff dei piccoli di Dedicato questo argomento e gli avevamo promesso che l'avremmo riaffrontato nei mesi successivi. Poi, con mancanza di tempo e tanti pensieri in queste nostre trasmissioni, siamo arrivati a una spontaneità di questa classe che se ne è uscita con questo dissenso e abbiamo ripreso l'argomento approfittandone per poi appunto ricordare ai nostri piccoli che lo stiamo riaffrontando. Allora, ci teniamo intanto a specificare che non vogliamo censurare nessuno, quindi i pensieri dei bambini li ascoltiamo molto volentieri e sappiamo che vengono dal cuore e dalla pancia i pensieri di questi bimbi. Le lamentele che loro fanno non sono mai sulle persone, anzi le persone che a scuola li seguono durante il momento della mensa sono molto apprezzate e ci tengo a dirlo perché ho parlato poi coi bimbi dopo questi loro pensieri detti in radio e sono uscite delle cose molto molto belle e simpatiche. Il problema è che i bimbi vanno di pancia e di cuore, quindi non possiamo contenere certi pensieri. Dall'altro lato però lo staff di adulti di Dedicato, tutti i genitori con cui ho parlato, sappiamo benissimo che c'è un gruppo di professionisti che lavora per le mense scolastiche, che sia una cooperativa o l'altra, che sia il Comune di Bologna che se ne occupa, questo poco importa, ci sono sempre all'interno di questi gruppi di lavoro che si dedicano alla mensa dei professionisti, dei nutrizionisti, delle persone che sanno che cosa fanno. Quindi ci sono delle commissioni mensa, ci sono tutta una serie di percorsi attivi per cui noi genitori in un certo modo siamo tranquilli. Poi la lamentela del bambino, ripeto, non è di questo istituto o dell'altro istituto, è a 360 gradi perché noi di Dedicato abbiamo conosciuto bambini di tutta Italia e le mense scolastiche sono poco apprezzate in tutto il nostro paese, forse solo nelle scuole private dove ci sono le cuoche interne. Per il resto devo dire che da Milano a Palermo io ho sentito solo delle lamentele dai bambini per quanto riguarda il cibo della scuola, come lo chiamano loro, e quindi ascoltiamoli assolutamente, diamo loro voce ai pensieri, ascoltiamo assolutamente quello che hanno da dire e con il sorriso cerchiamo di rassicurarli sul fatto che gli adulti non mollano, quindi le vostre lamentele le ascoltiamo e siamo sempre alla ricerca di una soluzione per voi. Adesso siamo con la quinta B di Croce Coperta e iniziamo a parlare anche con loro, abbiamo parlato con la quinta A, quindi quinta B. Di cosa vogliamo parlare? Della quinta B. Perfetto, abbiamo la rappresentante della parola della quinta B, femminile, la rappresentante femminile, quella che non riesce mai a smettere di parlare. Dici qualcosa. Ora non riesce a parlare. Siamo una bella classe. Allora, questo... Questo lo vorrei chiedere alle vostre maestre. Però... Posso dire che con me siete sicuramente una bella classe. Scusate, non è ancora stato detto niente. La mensa della scuola. Allora, partiamo col dire che fa ribrezzo a tutte le Spice Girl. Giusto. Scusa, torniamo fra un attimo sulla mensa della scuola. Chi sono le Spice Girl? Perché io conosco il gruppo anni 90, 2000. Spice Boys. Really wanna one, but I really, really want. Quella lì con... quella, io con quel gruppo lì, ma qui chi sono le Spice Girl? Lei. E quindi quante siete come Spice Girl? Lei. Le Spice Girl erano cinque comunque. Lei. E lei contata? Sì. Ok. Sette. Parliamo di una cosa che interessa a tutta la quinta B. Quindi la mensa della scuola, avevamo detto, non piace alle Spice Girl. Allora, io adesso dico le Spice Girl, però se dobbiamo chiedere alla classe... Abbiamo fatto una votazione. 20 che non piace su... 24. Su 24, 4 persone in croce. Ma tu mangi? A volte no, soprattutto a cosa di soia che c'è oggi. Come fate voi a esprimere il vostro dissenso in questa cosa? Avvocati. Chiamiamo l'avvocato, viene a scuola. La Spice Girl sindacalista. Avvocato sindacalista. Avvocato penale. Diritto penale. Nella pasta si trova di tutto, è dura e se la prendi con la forchetta ti esce un blocco. Sì, è vero. Oppure non è salata, è scotta. Ma Scott! Ciao. Dobbiamo crescere, siamo nel momento di sviluppo. Nell'hamburger non lo mangio quasi mai, perché dentro trovo delle molecole plastiche, gel. Le molecole dentro all'hamburger. Su quello che dico loro della mensa non sono proprio d'accordo, perché la mensa sì, a volte può non piacere, però cioè diciamo che è gradevolmente piacevole. Ci sono delle volte in cui non è buona e delle volte sì, però il secondo non lo mangerò mai in vita mia, sappiatelo. Allora, ma Scott, cosa ci fa lei in questa classe, scusi? È la mia classe, scusatemi, oppure ho sbagliato classe? No, un attimo, perché questa è la mascotte. No, secondo me ho sbagliato classe. No, questa è la mascotte di Dedicato, non solo, cioè proprio della radio. Questi parlano troppo poco. E quindi, cioè, mascotte, ma mi stupisce questa cosa. Salve! Salve! Mi dica qualcosa della mensa, non sia troppo spietata, mascotte, come al solito. Io vi devo dire sta roba. La pasta, come diceva l'inviata, è dura. Il brodo, quando ce lo danno, non è brodo, è acqua. Oppure è olio. L'olio non si unisce. È acqua gialla. C'è una soluzione per la mensa. Mettersi la dieta in bianco. Ho una cosa importante a dire a tutto il mondo. Let's go. È molto, molto importante. È ragazzi, molto importante. Ascoltiamo l'inviato. Trovo anch'io che sia molto importante. Dì. Vai. Let's go. Ski. Let's go. Era molto importante. Quinta B, avete qualcos'altro da dire? Addio alla quinta B. Che esagerato, però comunque la vuoi una pastina, limone. Perché dici che ha mal di gola? Direi di sì, fagli vedere la tua voce normale. Perché? Ciao Bibi, ciao quinta B. Ciao. Grazie alle quinte di Croce Coperta dell'Istituto Comprensivo 15 di Bologna, grazie alle loro maestre, a tutti i bambini e alle famiglie, perché sono veramente due classi meravigliose con le quali ci siamo divertite tantissimo, tutti noi dello staff di Dedicato e in questi 5 anni, quindi grazie con il cuore veramente tanto a questi bambini. Vi lasciamo con un brano che parla da solo. Ciao bimbi, in bocca al lupo e buona avventura. Noi ci risentiamo la settimana prossima, sempre alle 13, su Radio Città Fujiko con Dedicato. Ciao!